Siamo sicuri che non c'è stato mai un tradimento, caro Razzi? Beh, no, diciamo la verità, una volta solo, una volta. Ma di pensieri, sai, se ne fa tanto, anzi, perché ti vedi una, dici, minchia, quanto è buona quella, però, insomma, in realtà non è che possiamo, siamo uomini, non siamo mica... La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Col cavaliere niente imprevedibile. Tada, che vita intensa, mondo difficile, colpisce al cuore, col cavaliere nulla impensato. Senti Brunetta, Renzo, senti Brunetta che dice, eh? L'ho sentito oggi perché ha presentato il mattinale alla camera, stamattina ero lì con lui, con Renato, ti saluta, ha detto che siamo due cretini. No, ripeti più forte un attimo, che cosa ha detto Brunetta? No, ridendo, sì. Ridendo, ha detto la zanzara, due cretini. Simpatico è stato, però. C'è un cavallo. Nome di Berlusconi sul simbolo è come? Senti Brunettone, eh. Il nome di Berlusconi sul simbolo ci sarà? Ma penso proprio di sì. È un marchio di successo, è un brand di successo. Mai mollare i marchi di successo e i brand di successo come la Coca-Cola. Che annusa il suo futuro. Berlusconi sul simbolo è come la Coca-Cola. Addirittura qualcuno propone di sostituire Forza Italia direttamente col nome Berlusconi. Potrebbe essere un'idea. La mia è sempre la migliore. Candidare 5 Berlusconi in 5 circoscrizioni. 5 Berlusconi diversi. Da Pier Silvio in giù. Senti ancora Brunetta, non si fa rottamare come D'Alema. Vede, Berlusconi non ha successori, Berlusconi succede a se stesso, quindi è un assoluto. Non è mica uno che si fa rottamare come D'Alema e che poi si fa recuperare come D'Alema. Berlusconi è una cosa seria, Mentre Renzi mette a posto Cottarelli, dice, vabbè, quello è un commercialista. Radio. Alla fine la lista. Adesso, che cosa vuoi, dai, Parenzo? Cosa no, vuoi? Sono qui alla cosa vuoi? Film, cosa Borbotti? Alla presentazione del film quando c'era Berlinguer, c'è la mia amica Livia Turco che è qui al mio fianco, che è arrivata con grande anticipo, a piedi, senza automobile, che ti vuole fare semplicemente un saluto. Sì. La Livia Turco, grande, bisogna dirlo, ministro del passato. Va bene, la solita lecchinata. Ecco, saluta pure Livia, scusami. Ecco. Buonasera, come sta? Buonasera, bene. Ma Parenzo è sempre così servile, dice grande ministro. Ma quale? Come... Servile? Sì. Dipende con chi. Molto servile. Anche lei è salita. Più nulla. Al massimo è un amico, servile no. No, anche lei è salita sul carro di Renzi, onorevole Turco? No, io sono sempre su Berlinguer, sono qui per Berlinguer. Ah, lei è sul carro di Berlinguer, il carro adesso è una brutta cosa, sul carro di Berlinguer non è proprio no, bellissimo. No, carro di Berlinguer no, sono sulla memoria di Berlinguer, sulla memoria. La storia di Berlinguer. Però non è salita sul carro di Renzi. No. Ma se dovesse dare un voto fino adesso a Renzi, quale voto darebbe? Nei primi passi? No, io non amo le pagelle. Ma dia un voto così, un voto di incoraggio. È sgrammaticata, vabbè, comunque, vabbè. Ci sentiamo presto, Va bene, arrivederci. Grazie. Vabbè, Parenzo si intervista e si diverte a intercettare le persone per strada stasera, vabbè. Ma almeno fai una domanda, no? Fai una domanda seria, preparati. Niente. Ho tutto pronto qua. Ma hai pronto. Sono qui, adesso tra poco arriva Squinti. Senti D'Alema, Barbara Berlusconi si deve occupare del Milan. Ma che gliene frega lui? Cioè, perché Barbara Berlusconi non si potrebbe candidare? Perché si dovrebbe occupare del Milan? Cioè, uno si può candidare, un cittadino italiano libero, signor D'Alema, capito? Mangia pieno. Una delle cose più positive dell'attuale fase politica italiana è che non si parla più di Berlusconi. Vorrei rimanere in questo clima. Anche di Barbara, diciamo. Berlusconi. Non saprei. Penso che lei si debba preoccupare del Milan e ha delle preoccupazioni più che serie in questo momento. Beh, a parte che quello che dice D'Alema è sbagliato, perché non è affatto vero, non è affatto vero che non si parla di Berlusconi, si parla di Berlusconi continuamente in realtà. Oh, io vorrei parlare del signor Augias adesso. Corrado Augias, ieri sera alle Invasioni Barbariche. Vabbè, a parte il fatto che dice augura a Berlusconi un riposo con compagnie migliori rispetto alla Dama Bianca, vabbè, insomma, battutismo però ci sta, signor Augias, anti berlusconiano di ferro. Io gli auguro una vecchiaia, essendo noi coetanei tra l'altro, una vecchiaia serena, agiata, quello non gli manca. È tremenda. Col conforto di alcune compagnie, spero un po' meglio di quelle che si è scelto anche in passato, no? La Dama Bianca è una, ma anche questa cosa, ma uno va in pensione con chi vuole, con le dame bianche, con le mignotte, con, cioè, non ho capito perché le sceglie Augias quali sono le compagnie buone e le compagnie cattive. Cioè, sai com'è, la signorina si è fatta trovare, ma lascia perdere la Dama Bianca, lui si riferisce in generale con compagnie migliori, ma che vuol dire, ma chi le sceglie Augias le compagnie, quali sono le migliori, quali sono le peggiori? È una pretesa moralistica assurda. No, moralistica, sai, se qualcuno... Vabbè, a te piace Augias, se te piace Augias, so affari tuoi. Se preferisci Augias a Berlusconi, so affari tuoi, amico mio. Senti questa cosa, stai zitto. Ma quale questione morale? Ma quale questione morale non esiste? Sì, certo, esiste, naturalmente, perché i ladri vanno puniti severamente, certo che esiste, ma non la questione morale. Senti questa cosa, Berlusconi ha accumulato un capitale con mezzi fraudolenti come quasi tutti gli imprenditori. Augias. Berlusconi è stato un grande imprenditore che ha usato anche dei mezzi fraudolenti, ma lo fanno praticamente tutti. Lei immagini tutti che... Tutti gli imprenditori usano mezzi fraudolenti. Immagini che il papà del famoso presidente... Saranno contenti gli imprenditori che ci stanno seguendo? Sì, sì. Ma sentirselo dire. Guardi, l'accumulazione primaria del capitale, questo non lo dico io, lo dice un grande economista di in questo momento... L'accumulazione primaria del capitale è sempre, diceva lui, accompagnata da qualche gesto fuori delle norme. Cioè si accumula capitale con commettendo reati, vabbè. Cosa abbiamo nel menù ancora? Beh, vediamo un cavaliere del lavoro, uno conosciutissimo, Favaretto Rubelli, uno che è nel direttivo. Non so chi sia, francamente non lo so chi è. Si chiama Favaretto Rubelli. Berlusconi si è tolto di mezzo da solo, non c'è nessuno amareggiato. Voi l'avreste sospeso in alternativa? Questo non glielo posso dire, perché siccome c'è stata l'autosospensione. Lui si è tolto di mezzo almeno per 2 anni, poi vedremo. Qualcuno era amareggiato oppure? No, veramente non direi. Ci sarà magari qualcuno che a suo tempo ha votato Berlusconi, allora sarà stato più dispiaciuto, ma non si è visto. Oh, voglio segnalare che però Berlusconi è cavaliere di Gran Croce di Merito con placca d'oro del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio. Cavaliere ha altre onorificenze, cavaliere di Gran Croce dell'Ordine Reale Norvegese al Merito, Gran Croce all'Ordine al Merito della Repubblica di Polonia, cavaliere di Gran Croce dell'Ordine della Stella di Romania e cavaliere dell'Ordine Piano della Santa Sede. Non è più cavaliere del lavoro. Cavaliere del lavoro, cioè che hai commesso dei reati per giunta fiscali. Mamma mia, abbiamo del lavoro, ma abbiamo bisogno di questa spiegazione di Parenzo. È 2 giorni che si parla di questa cosa, abbiamo bisogno della tua spiegazione. Sembra che sennò gli imprenditori siano tutti cattivi. Cavaliere di Gran Croce di Merito. Vabbè. Non sono comunisti quelli che cavaliere di Gran Croce di Merito con placca d'oro del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio. Ma è un complotto, diciamo. Briatore. Se fossi un giovane italiano andrei a lavorare in Africa. I ragazzi vanno all'università, vogliono fare economia e commercio oppure vogliono fare gli avvocati. E non va bene. Ma in un momento in cui c'è un'economia che è molto ferma, no? In Italia vediamo i dati, vediamo. E allora i dati uno del come pieno. Comincia? Comincia trovando un lavoro che non è il suo lavoro, perché il lavoro non è una cosa che tu devi fare quello che a te piace, devi fare una roba che sopravvivi. E di lì in avanti, se io avessi 20 anni, farei proprio così, andare nei paesi dove c'è più sviluppo. Ed è facile, in questo momento tutta la parte africana c'è uno sviluppo incredibile. Emigrate in Africa, dove c'è lavoro, consiglia Briatore. Che state a fare qui a... no, con i pollici in mano, seduti con le mamme, con le nonne, con i parenti che vi rifocillano, che vi danno da mangiare, a diventare sempre più grassi. Andate a sgobbare in Africa dove c'è il lavoro, a fare i camerieri, che ne so, a fare gli artisti. I consigli di Briatore, il quale però dice: se crolla Matteo non so cosa possa succedere. Caro Briatore, massima stima, per carità, però non succede niente se crolla Renzi. Ne arriva un altro, è uguale, non è che è l'uomo della provvidenza e dopo Renzi non c'è nulla. Ronda, ronda, ronda, se va bene ronda. Ve lo dico a voi due d'amico, fatevi i cazzi vostri. Non bruciano proprio addosso a me. No! Che non si può spruzzare lì di dire. Chi è? Professore? Chi è? Sono Cruciani, come stai? Oi, beh, tu come stai? Non c'è male. Quanto tempo che non ci sentiamo? Che è successo? Ma non lo so, ho letto dei tweet strani dove ti sei scatenato su Grillo, su Berlusconi. Che è successo? Io ho detto se non votate Berlusconi, votate Grillo. Addirittura? Perché che devi fare? Che vuoi, votare a sinistra? Mai quello. No, vabbè, quello che c'entra. Quello è scontato, che tu non voteresti mai a sinistra. Parenzo, saluta il professore. Buonasera, professor Taormina. No, voglio dire, non è che lei, con tutto il rispetto, sposta voti. Cioè, non è che c'è Taormina. No, io non sposto niente, per carità, assolutamente. Ma il mio sì, però, il mio lo sposto. Vabbè, certo, assolutamente. Le pare niente. Ma perché non dai il cavalierato di Filettino a Berlusconi, che ha perso... Ma ha visto adesso la questione della regione Veneto, praticamente sì. Il plebiscito è esattamente quello che abbiamo fatto noi. Dove? Quando abbiamo costruito il Principato a Filettino. Ma dai, su, professor Taormina. Ma quale stessa operazione? Ma quale operazione? Unicamente la stessa operazione. Ma quelli hanno un milione di consensi lì in Veneto, questo referendum. Il nostro era un comune piccolo, per cui non potevamo avere un consenso di quella portata, però è stato un consenso plebiscitario, perché tutta la cittadinanza votò a favore. Ma no, dai, il referendum in Veneto come quello a Filettino, dai, su. E la logica giuridica è la stessa. Ma è professore, la logica dai. Giuridica è la stessa. Ma no. Vedrete, è un referendum farsa quello. Vedrete che quale. Quale del Veneto, quello del Veneto, sarà mica è un referendum online, è un'iniziativa di partito. Ho capito, coinvolge la cittadinanza, coinvolge la cittadinanza, allo stesso modo in cui abbiamo fatto noi per il Principato di Filettino. Ma quale principio? Ma dai, abbiamo su. Fatto un vero e proprio una votazione. Io non ho capito perché professore tu continui ad attaccare la Juventus, me lo spieghi perché? Perché non li posso vedere. Cioè perché rubano a mani basse secondo te? No, perché sono anche come tifoseria, una tifoseria veramente come? Improponibile. Addirittura, dai. E che hanno fatto? Che fanno, dai, che fanno? Ma sono volgari, sono violenti, sono tutto. Cioè. Ma come volgari e violenti? Perché ti attaccano su Twitter, su internet, dai, su. L'attacco è sempre ammesso. E anzi, ma perché dicono, che tu li tratti come ladri? Io non è che tratto come ladri. Io ho messo in luce certe cose che hanno anche una dimostrazione storica, che parte dai vari processi che sono stati fatti. Povero Moggi adesso. Chi è andato alla Juventus, mica io, mica la Roma o il Napoli. Vabbè, ma per dai. Per quelle ragioni. Tu che sei vi siete dimenticati tutto, scusate. Vi siete dimenticati le cose. Io non me le dimentico le cose. Poi che uno si voglia in qualche modo riprendere, che abbia, per carità, una tifoseria eccezionale dal punto di vista più che altro numerico, e che la squadra sia quella che è, nessuno discute, però insomma, dai, su. Pregi e difetti, mio caro. Comunque mi è diventato grillino, sì, il professore, Parenzo. Mi dispiace. La filosofia ha insaputa di Grillo, tra l'altro, no? Ma che io non lo conosco manco Grillo, quindi non me ne frega niente. Vabbè, ho capito, ma all'inizio se faccio una questione ideologica. Addirittura ideologica. Addirittura. E perché? Perché l'abbattimento del sistema che conta. Cioè tu, adesso tu, Carlo Taormina, professore, avvocato, cioè vuoi abbattere il sistema, dai, su. Beh, io sempre questo l'ho voluto fare. Non è mica... Abbattere pensavo il sistema. Pensavo che Berlusconi abbattesse il sistema, invece ci ha fregato a tutti. Ci ha fregato a tutti. Adesso comanda, è accerchiato dalla Pascale. No, quello no, perché dai, quella è forse la cosa migliore della... Perché? Di questo momento, beh, insomma, fra ex cavalierati e ex tutto, almeno quella è attuale. Dice una certezza, almeno quella, no? C'è una certezza, no? Cioè, prima era circondato da donne. Lasciamo perdere. Vabbè, significa che ancora qualche cosa lo può fare da quel punto di vista. Ma certo, beato lui. Tu niente, mi sa. No, io zero, perché hai detto. Perché che è successo là? No, è che no. Hai fatto... Sei tu e lei, non so come le devo chiamare. No, tu. Ecco, sei tu che insinui. E io... Hai fatto la prostata pure tu come Berlusconi. Io no? Insisto. Vabbè, ma che significa? Io insisto nella... Diciamo, mi infilo nella logica dell'insinuazione. Vabbè, ho capito, ma la prostata l'hai fatta pure tu, professor. E vabbè, che significa questo? Vabbè. No, non significa, guarda. Mi non significa niente. No. Dici che non significa niente, eh? No, niente. Per carità. Questa affermazione. Ecco. Per carità. Va bene. Vabbè, comunque, che succede da quelle parti? Dove? Processi, che succede? Facciamo di tutto e di più. Che processi ci sono? Mafiosi, indranghetisti, che c'è? Tutto. L'importante è che paghino pure sti criminali, no? Vabbè. L'importante è quello. Resta sempre questo invito da parte dei signori dell'Arcigay che ci hanno rivolto. Ah sì, beh, è un invito che noi raccoglieremo senz'altro. Ma senz'altro. Beh, perché non dovresti raccoglierlo? Scusa, un confronto aperto. Tu vuoi fare il provocatore, questi mi hanno rotto le scatole e basta. Perché meglio non interessarsi di questa ma gente. Ma che fanno questi qua? Perché vedi, io faccio dei ragionamenti e delle affermazioni, sì. Qualche volta magari sono anche un po', diciamo, sopra le righe. Delle affermazioni che, nelle quali credo e che dovrebbero essere. E questi che fanno? Ti insultano? Certo, e quindi loro ti insultano. Certo. Cioè, che ti hanno detto? Scusa, che ti hanno detto? Ma di tutto e di più, dicono. Basta vedere Facebook Vabbè, pure tu non ci vai, leggero, eh? Ma sempre io sono sempre di... Reagisco a quello che ti dicono gli altri. Comunque, sì. ti vogliono invitare il presidente dell'Arcigay. Ci vai, guarda, al posto mio ci vai tu, che ti trovi bene. Vabbè, perché mi trovo bene? Ti trovi bene, ognuno ha i suoi gusti, le sue... Ma non è questione di gusti, che c'entra come i gusti? Che? No, perché non ho capito, se uno va a fare un confronto con l'Arcigay significa che è gay, non ho capito. No, quello no, per carità. Però è meglio stare lontani da certe situazioni. Cioè, è meglio non avvicinarsi troppo, dici tu? Per carità, sì. Dovessero mettere qualche... No, non mettono niente perché non possono mettere niente. Magari allungano le mani, che ne so, no? Sono delle cose inaudite. Vabbè, comunque, ti dispiace per la Mussolini, per quello che è successo? Sì, veramente mi dispiace molto, anche perché conosco sia lui che lei, per cui, insomma... Mi è dispiaciuto molto. Vabbè, ma la cosa sono solidale con... Ma andare con la minorenne è una vergogna, dai, su. Beh, insomma, non è una cosa bella, certamente, non è una cosa bella, assolutamente inaccettabile, voglio dire. Cioè, tu attacchi così tanto i gay adesso sulla storia delle baby squillo stai... Cioè, andare con la minorenne è un reato. Appunto, per quello dico. Quello è un reato e quindi ovviamente lo disapprovo, ma in questo caso, accanto al problema, diciamo così, giudiziario, c'è soprattutto un problema di rispetto per Alessandra, che è una persona veramente... Ho capito, però è normale che se ne parli, no? Cioè, ma certo, per carità, se ne deve parlare. Naturalmente dispiace perché... Si parla solo di lei, adesso si parla del figlio di Donato Bruno. Di Donato Bruno, uno della, non so dove, della Corte dei Conti, là, del Consiglio di Stato. Certo che pure quelli, pure là c'è una porcilaia. Ma sì, ma guarda, questo è un mondo ormai fatto in questo È una porcilaia tremenda, cioè questi qua che vanno con le minorenne, come li chiameresti? Dei porci? Sì, maiali. Credo che sia la formula. La definizione giusta, maiali, capito Parenzo? Va bene. Comunque la speranza dell'avvocato è che la gente continui a delinquere, questo è il punto. La mia speranza? Beh, sì, certo, altrimenti non si guadagna. Ma guarda che si guadagna molto di più con quello che è sotto processo perché è innocente. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, hey, hey, hey. ormai è tutto degradato. Enrico Lucci alle prese con D'Alema e Renzi. Matteo, dai un bacetto, non gli devi dire più niente di Bruno. Gli dai un bacetto? Matteo, dai un bacetto! Matteuccio, gli devi voler bene a Massimetto. Gli dai un bacetto, gli devi voler bene come un nonnetto. Con qualche sforzo di precocità gli sarei potuto essere padre, ma nonnetto no, Si avvicina, avvicina, ti sembrerà una festa un poco sadica. Poi con Cacciari, sentitelo alle prese con Cacciari, con Grillo e Casalecchio lo chiama Cacciari, Come possiamo pensare che i grandi problemi economico-finanziari vengano risolti con il web? Bisogna capire che si devono accompagnare questi grandi processi epocali attraverso un ripensamento anche delle forme democratiche. Ma Grillo e Casalecchio sono i primi a sapere che dicono puttanata a questo proposito. Casalecchio, Casalecchio. Ma ci sei? Dove sei finito? Ci sono due prosecchi per cortesia, grazie. Adesso sta col prosecco. Senti i politici sull'Ucraina, Questo è Incerti, Partito Democratico. Senti. Il nome del premier, quello che l'hanno silurato? Questo non lo ricordo in questo momento. Invece la premier, l'ex premier che è stata liberata, se la ricorda? Mi hanno appena chiamato. L'ex premier, quella che hanno liberato, che era in prigione. Quella con la trecciona gialla. Se lo ricorda come si chiama? No, non la ricordo in questo momento. Incerti, Partito Democratico. Quest'altro, mi ricordo Germanà, Forza Italia. Dove sta l'Ucraina? Senta, ma l'Ucraina, diciamo, geograficamente dove si trova? In che continente si trova? Continente, credo che sia a nord-est da Mosca. La Timoshenko, no? No, lei mi porta su domande. No, ma dico la liberazione della Timoshenko, è stata importante. Non lo so. Non sai chi è la Timoshenko? No. Okay. E invece si ricorda il nome del premier che è stato sulla capitale dell'Ucraina? Non mi interessa. No, io seguo la politica nazionale. Ah, nazionale. Seguo la politica nazionale, Germanà. Ma che c'è? Chi c'è? C'è un'amichetta tua. Chi è? Paola? È come snobby ormai. Vediamo se mi riconosci, va? Chi è? Paola Concia, chi è? Ammazza, vedi, ma tu stai a seguire tutte le ragazze, te ne ricordi sempre, ma tu stai a seguire tutte le cose, ti metti a seguire tutte le conferenze, ormai non c'è un cazzo da fare, segui tutte le conferenze, i convegni, obiettivo riciclo, obiettivo tornare in Parlamento, mandalo a fare in culo, fallo tu a nome mio, io non posso, sono una brava ragazza. Ma come la brava ragazza? Sì, la brava ragazza tu adesso. Ma sei ancora fidanzata o no? Ma veramente sono sposata, vabbè, quello che è, sposata, certo. Sono innamoratissima, sì, tutto a posto, non è cambiato niente l'ultima volta che ci siamo sentiti, non è cambiato nulla. No, tesoro. Senti amore, ma tu sei d'accordo sulle quote rosa o contro? Sono d'accordo, sì. Sono pure d'accordo, sulle quote rosa sei d'accordo. È una forzatura. Ma però, che fa, una puttanata, non una forzatura. Così macista è una forzatura necessaria, anche perché bisogna combattere il monopolio maschile, bisogna ribaltare il pensiero. Ma non quale è, monopolio? È una legge antimonopolio. Ma quale legge antimonopolio? Dai, su. Davvero? Ma non si possono fare le quote rosa, dai. Mm. Mettere le quote come nei ghetti, tu che sei così aperta, ghetti? Dai. Ma parliamo un po' di Berlinguer e del non me ne frega niente di Berlinguer. Che me ne frega tutto, di Berlinguer? Non gliene fremo. Che non sei altro. Sei una brutta persona. Ma brava. No, ma no. Comunque, in un paese normale, cara Anna Paola, qualcuno farebbe casino pure su questa storia della casa di Renzi. Renzi è protetto da una sorta di. Della casa di Renzi. Ma non è successo niente. La carattere. Chi l'ha pagato l'affitto? Scusami. Ma che ne so io? C'è scritto: nessuno è indagato, nessun problema. Vabbè, ma che c'entra? No, nessuno è indagato. Manco Fini era indagato su Monte Carlo. Che vuol dire? Però, in un paese ormai narcotizzato, in cui c'è l'uomo della provvidenza, solo alcuni giornali, in particolare Libero, fanno una battaglia contro Renzi su alcune cose concrete. In particolare. Madonna, quanto sei antipatico! Madonna, subito uno come Ma perché dovete sempre distruggere tutti? Ma che distruggere? Ma è stato opportuno che uno si è fatto pagare la casa per 3 anni da un signore che poi aveva affari col comune, sì o no? Secondo me no. Ma non lo so, ma probabilmente non ci sarà nessun problema, mica è scemo Renzi. E poi scusa, sti contributi che sono stati pagati, oggi Libero fa pure una cosa del genere, giustamente. Pare che i contributi li paghiamo noi, i contributi, si è fatto nominare dirigente dell'azienda di famiglia pochi giorni prima di candidarsi per la provincia. Pure questo sarà una cosa su cui un grande giornale si fa una indaga oppure no? Oppure deve rimanere lì appesa questa cosa, dai. Ma io non mi pare appesa. Mi pare una cosa che se ci sta qualche problema ci sarà. Dov'hai? Vado qua. Dov'ha? Tavolino fuori. Tavolino fuori. Questi banchettano. Sì, stiamo a prendere l'aperitivo. Vabbè, poi adesso ti mando dei baci e ti saluto. Vabbè, ciao, va. Ciao. Ciao, sì, passami Parenzo, va. Mandiamo il titolo del TG3. L'abbiamo mandato o no? Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Obama firma sanzioni contro la Russia, Mosca risponde con le stesse misure. L'ONU avverte, siamo al bivio di una spirale fuori controllo. Disco verde della Commissione di Bruxelles, ambizioso il programma di Renzi. L'Europa sosterrà le riforme dell'Italia. Renzi al Consiglio europeo, l'Italia rispetta i vincoli, non siamo studenti fuori corso, le riforme rivoluzioneranno il paese. Forza Italia alle prese con liste simbolo per le europee dopo l'esclusione di Berlusconi. Romani, nessun figlio candidato. Brunetta, il nome è un brand da mantenere. Ci sono anche 2 imprenditori italiani tra i 5 arrestati a Prato per il rogo del capannone dove morirono 7 operai cinesi. Un satellite australiano avvista un frammento di 24 metri. Dopo tanti giorni di vuoto, secondo gli esperti, è una pista credibile. Un cargo norvegese fa rotta sul punto. 20 anni fa Ilaria Alpi e Miran Hrovatin giustiziati a Mogadiscio. Dopo le sollecitazioni della Boldrini, il governo annuncia toglieremo il segreto. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Oh, il nostro amico Varin! Senti cosa si è inventato, Sammy Varin, Radio Padania. Questi hanno ormai un'ossessione per noi. Non hanno capito che noi ci divertiamo a prenderli per il culo. Ci divertiamo a tagliare quello che succede a Radio Padania, perché succedono delle cose incredibili. Invece se la prendono sul serio, Pellegrin, Varin. Sentiamo Varin, vai. Buongiorno, caro Varin. Io le telefono perché sono molto scocciata del comportamento di Parenzo che ha nei vostri confronti. Oh signor, cosa ha combinato stavolta? Questa volta, cioè, a parte che lui incassa sempre il titolo di dottore e non lo è, a me piacerebbe che gli facesse sentire la telefonata. Siccome lui è molto tempestivo nel accusare gli altri, lui incassa il titolo di dottore e non smentisce, no, non sono laureato. Andiamo a girare. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera. Pellegrin, sentiamo un po' di Pellegrin, dai. Servi di Roma fuori. Il grande orecchio che mi sta ascoltando. Quanto gli date a Cosimo Caucciù per ascoltarmi tutti i giorni? Fatecelo sapere, perché io ho una persona, conosco una persona davvero molto brava, molto preparata, così che lo farebbe anche con piacere di farlo, no? Capite? Cosimo Caucciù mi odia perché è malvagio. Lui è malvagio, voi siete malvagi, quindi odiate chi? Odiate coloro che malvagi non sono, cioè odiate me. Caccia oltre il fiume. Il potere fa. No, Cosimo Caucciù, caro Parenzo, tra un aperitivo e l'altro sarebbe. No, che aperitivo, c'è tutto il coso della pista. Vuoi parlare con il compagno Pistor, ad esempio? No, non me ne frega niente. Il fondatore del Manifesto. No, non me ne può fregare di meno. No, allora aspetta, c'è Pippo Baudo. No. Pippo lo vuoi? Lo vuoi Pippo? Pippo Baudo, sì, dammi Pippo. Lo vuoi o no? Pippo? Dammi Pippo, dai. Aspetta un attimo, dammi Pippo. Ciao, come stai? Ciao compagno. Pronto, aspetta, A Scalfari, c'ho Scalfari. Vabbè, ma chi mi dai? Mi dai qualcuno o no? Vabbè, niente. Fabrizio. Fabrizio da Firenze. Io non lo sopporto quando fa così. Non lo sopporto. Fabrizio da Firenze, dai, non lo sopporto. Sì, ciao, buonasera. Scusate, la prima volta il telefono. Io telefonavo solo per dirvi questo. Io ascolto sempre la vostra emissione. Mi divertite un monte quando sono a correre. Però Parenzo, sono piene le palle. Questo servilismo, questo leccaculo. cioè, scusate se ve lo dico, non so se fa parte del copione. È là, sta nel suo mondo stasera, sta là. No, tutte no, le persone. Del copione, e parte la lingua, parte la lingua. Tutto va, vi volevo dire, ragazzi. Cioè, che cosa vuoi dire? Non ho capito, Fabrizio. No, solo questo, che ne ho pieno le falli se ti imparezzo e fa il servilista. Poi se fa parte del copione della trasmissione, va bene tutto, però. Due coglioni, scusate il termine. Vabbè. Ciao, ciao Fabrizio. Zazara Party. Zazara Party. Daniele Benji Benati con noi qui, è uscito il suo nuovo singolo, ma abbiamo in collegamento da Roma David Parenzo con Pippo Baudo. Buonasera. Caro Pippo, come stai? Bene, benissimo. Beh, molto sereno, molto felice. Sì. Felice di stare stasera qui per vedere questo film. Senti, ma si parla di te però per questa cosa che io ho trovato eccezionale, perché hai tirato fuori quello che sentivi, quello che pensavi sulla storia della Dama Bianca, che hai soprannominato la mignottona, caro Pippo. Vabbè, insomma, sembra un po' forte, però. No, rendeva l'idea, diciamo. L'idea, insomma, d'altra parte quello che ha fatto è ignobile. Siccome capisci, sì, la marea di ragazzi drogati, minorenni, sì, sta aumentando in maniera esponenziale. Noi abbiamo una signora di 31 anni, plurilaureata, sì, la quale addirittura ha accompagnato il Presidente del Consiglio, lavora, sì, alla Regione, poi la trova con 25 kg di roba all'aeroporto, insomma. Anzi, ci sei andato pure leggero, dici tu. Scusa, ma per me... Altro che un moto di stizza. Altro che mignottona, dici tu, dovrebbe... per carità. Ma anche carità. Berlusconi si dovrebbe vergognare, secondo te, di aver ospitato, di aver portato un personaggio... Ma io mi auguro che lui non sapesse chi era questa ragazza, me lo auguro tanto per la sua coscienza di uomo. Però dovrebbe chiarirlo, Però dovrebbe chiarirlo. Io per noi vogliamo sapere questa carriera, come l'ha fatta. Perché era al G8, dici? Perché accompagnava Berlusconi in queste missioni, appunto, internazionali? Ma perché l'ha fatta e perché stava lì? Quali meriti ha avuto? Secondo Sgarbi era una specie di gioco sessuale, diciamo, questa signorina. Dice Sgarbi. Gioco? Un po' sessuale. Gioco sessuale? Sì. Ma quale gioco sessuale? Basta con questi giochi sessuali, non c'ha l'età, per carità, basta. No. Vabbè, questo succedeva qualche anno fa, dice, anche va bene. Non cambia niente. Andare in sala, Paolo. Senti, ma Berlusconi che rinuncia, che è stato diciamo estromesso, anche se lui ha anticipato i tempi dalla carica di cavaliere, che effetto ti ma fa? Non è che ha anticipato i tempi, perché sapevo che l'avrebbero espulso. Certo. Ha fatto certo. Bene, prima che mi cacciate via me ne vado da solo, una volta che si è diverso prima, insomma, ha fatto bene. Certo. Senti, ma pare che vogliono candidare Piersilio Silvio Berlusconi, sarebbe un errore tremendo secondo te? Ma a me mi farebbe molto ridere. Perché? No, vedere Silvio Berlusconi candidato alle europee, insomma, sì, è un po' troppo. Cioè una cosa un po' ridicola, dici tu? A me mi sembra un po' ridicolo, speriamo che non lo faccia, insomma. Vabbè. Pippo, quanto sei renziano, Pippo? Io sono completamente renziano. Completamente. Cioè adesso l'ho che voto che... Renzi. Ma che voto gli dai? Renzi. Fino adesso che voto gli dai? Tutti annunci oppure c'è anche qualcosa di concreto secondo te? Non ho capito. Che voto dico, dai a Renzi? Che voto dai fino adesso? Fino adesso ma non è che gli do 10, gli do un bel 7. 7. Va bene. 7. Sì. Senti, ma è tutto annunci? Dovrebbe essere più concreto oppure cioè assomiglia a Berlusconi negli annunci? No, per carità, non facciamo paragoni, insomma, facciamogli fare il lavoro, vediamo un po', poi lo giudichiamo sui fatti. Vabbè, t'abbraccio, a presto, ciao Pippo. Pippo, ciao grazie. Pippo, t'abbraccio, ciao. Adesso, ciao, grazie. Ciao. Caro Giuseppe, il nuovo singolo. Vai, canta, Daniele, che ci stai a fare qua? L'ora legale, ora, l'ora solare, ieri, ma l'illegale è sempre più di moda qui. Si dorme un'ora in più, si dorme un'ora in meno, che cosa cambia tanto impegno, no? Quanto devo correre ad ovest? Così che il sole resti su, a filo dell'orizzonte, questo è un giorno importante, manca il fiato e il sole non c'è più. È giusto che finisca, è giusto. E questa è l'ora giusta, fresca bibita con veleno incorporato. E l'ho bevuto io. È già il tramonto, è insieme all'aperitivo anche la zanzara. Daniele Benji Benati davanti a me, l'uomo che ha creato quella sigla della zanzara, cioè gliel'abbiamo rubata noi, l'abbiamo fatta nostra, diciamo, non lo sapeva lui, l'abbiamo rubata a sua insaputa. Vienici a trovare presto, ciao Daniele, ciao ciao, ciao, ciao. Vengo mercoledì, bravo, che suoniamo a Milano, ciao. Francesca da Varese. Pronto? Dimmi, dimmi. Sì, buonasera. Io volevo, ho chiamato per la sua proposta provocatoria delle candidature nelle 5 circoscrizioni dei Berlusconi da Pier Silvio. No, ma io ho detto, non è che lo voglio che accada. Sarebbe meraviglioso se, siccome vogliono mettere il nome Berlusconi anche nella lista, dovrebbero candidare 5 Berlusconi diversi in 5 circoscrizioni diverse. Così. Passando per la sua amica Luna, quella che faceva le fotocopie in America. L'amica di chi? L'amica di chi? L'amica sua, Luna Berlusconi. L'ha che, detto ne sa, lei. Che ne sa che amica mia? Luna Berlusconi. No, l'ha detto lei, la mia amica Luna Berlusconi, l'ha detto lei l'altra sera o ieri sera. Amica, sì, la conosco, diciamo, adesso non voglio rinnegare nulla. Si fa per dire. Sì. Comunque, volevo... Allora, che cos'è che faceva? Scusi, non ho capito. No, perché ha detto che ha fatto esperienza qualche tempo fa, ha fatto esperienza in America e le è stato chiesto cosa faceva in questa azienda, e facevo le fotocopie. Sì, e allora qual è il problema? Mi sembra proprio una zanzara. Ma forse non ha capito bene. Il problema non Lavoroso. È di mettere lì uno qualsiasi che si chiama Berlusconi, cioè non è importante, sì. Può essere sì, anche un Berlusconi, un passante, sì, che si chiama Berlusconi. Questa è la premessa. Io però sono disposta a scommettere, sì, con lei, sì, e tra l'altro ho sentito che anche il Baudo l'ha detto, che si augura che Pier Silvio non accetti. Sì. Io sono pronta a scommettere sì, che nessuno dei vari 4-5 che siano lo farà, no? Perché col padre interdetto, incandidabile, ineleggibile, sì, senza passaporto, senza più titolo di cavaliere, prossimamente ai servizi sociali o peggio, confinato in casa tra Dudu e la Cafona, sì, no? Sì. Direi che cioè, ce la n'è Cafona. Abbastanza per tenere. Ma per lei chi è Cafona? Scusi, chi per è Cafona? I prossimi 2 anni. Vabbè, adesso quello lo deciderà Berlusconi, se avere basso, ecco, alto profilo. Cioè. Ma perché per lei. Scusi, no, ma per curiosità, perché lei considera Cafona Francesca Pascale? Così, per curiosità. Beh, mi sembra una persona della. Ma anche lei molto classificata per come si veste. Io Cafona non l'ho mai detto, si veste in maniera secondo me terribile. No, però. Telecafona, la chiamano tutti Telecafona. Ma Telecafona non c'entra, nessuno la chiama Telecafona. Ha fatto. L'inizio è passata per Telecafona. La chiamano la Calippa anche, no? La Calippa non la chiama nessuno adesso la Calippa. Sì, cioè, per quel video che c'era di Telecafona. Vabbè, comunque, andiamo avanti. Poi? No, poi ecco, questo, quindi io sono assolutamente sicura che sono pronta a scommettere che nessuno si candiderà. Può darsi. Ma perché non hanno fantasia, capito? Ma non hanno fantasia, perché dovrebbero avere la fantasia di fottersene dei vincoli, delle cose formali, eccetera, e sparigliare, candidare 5 Berlusconi diversi in 5 circoscrizioni. Marina, Pier Silvio, forse Pier Silvio no, perché c'è Mediaset, avere la grande fantasia di dire sfidare i magistrati, sfidare l'incandidabilità in questo modo, un modo fantasioso. Ecco, adesso volevo aggiungere un'ultima cosa. E aggiunga, avanti. Ecco, mi piacerebbe chiamarla per una volta, visto che glielo scrivo sempre nei tweet. Ciao Pierino. Ciao Pierino, ah, lei è quella di ciao Pierino, ma sì, ma io guardi che è una cosa simpatica, non ho nessun problema, lei è spesso è molto acida, ma io accetto volentieri l'acidità, grazie Francesca, grazie. Arrivederci. Grazie. La maglietta di Razzi, signori miei, l'ho indossata, Detto fatto, quello che dico faccio, la maglietta di Razzi, indossata per scopi specifici. Te lo dico da amico, fatti i cazzi tuoi. No, vabbè, adesso fatevi i cazzi vostri, quello sì, in generale. Però l'ho usata come ho detto. Enzo da Varese. Parenzo, però che c'hai là? Chi c'hai lì? Guarda, ero con il dottor Caselli, ma tu eri lì a cicciare. E adesso ti porto Napolitano. Però ero col dottor Caselli fino a poco fa. Sì. Ti ho chiamato, tu eri lì a parlare delle tue cose. Ma nessuno ha chiamato, però, nessuno, non ti abbiamo sentito comunque. Ero con il dottor. Beh, adesso come mi senti? Io devo andando, dico pronto. Tu però dici non si sente. Facendo. Nessuno ti ha sentito, ma sentiamo Enzo Davarese. Sto facendo un lavoro intensissimo. Enzo Davarese, tra una tartina e l'altra, certo. Enzo Davarese. Salmone. Salmone. Questo è il vostro uomo della sinistra, cari operai. Ma dai, Parenzo, cioè, tu sei veramente un dramma per questo paese. Cari guarda. Militanti della sinistra, abbiamo il vostro comunista Caviar impegnato alla presentazione del film su Berlinguer con caviale, prosecco, VIP della sinistra, borghesi della Roma bene, col pugno chiuso. Ciao ragazzi, vi voglio bene, ciao. Non vi abbandonerò mai. Caro direttore, quanto ci manchi, quanto ci manchi. Dobbiamo fargli fare qualcosa, Parenzo. L'inviato per la zanzara da qualche parte deve andare. E suona con maestria l'arpa. Ceausescu, Ceausescu. Ciao, Marta Marzotto è con noi, buonasera. Eccomi, ma con chi parlavate prima che vi manchi, non vi, vi mancherà sempre? Era Emilio Fede. Ma ti pareva, bugiardi. Mitologico Emilio Fede, diceva. Ma non, dai, il mio consuocero, figurati. Non vi abbandonerò mai, non diceva so, a appunto, noi. Ma voi sì. Parenzo? Allora, Giuseppe... Quando c'era Berlinguer. Dimmi, dimmi Marta. Ecco, no, ditemi voi. No, no, c'è David qua, lo conosci David Parenzo? La signora Marzotto, cosa dice signora Marzotto? No, la signora, no, bene, una signora, io mi chiedo, sono la Marta dei nazionale, ma dei poveri soprattutto. Beh, i poveri adesso poi non è. Gli eredati, quelli che vogliono, degli ironici, di quelli che, non lo so. Ma non mi dica che è diventata povera. Quelli che comandano, eh? Non mi dica che è diventata povera. No, che c'è, no, no, beh, lo sono sempre stata in fondo, non ho mai creduto a niente, sono sempre, non lo so, dai, non ho mai fatto un calcolo in vita mia. Beh, ho capito, ma adesso Giuseppe in che... David. No, Giuseppe, in che condizioni sta adesso dal punto di vista economico, signor Marzotto? Poverissima, perché aiuto chiunque abbia, quando guarda non posso più vedere la televisione di notte perché c'è una bambina che lì con, che non ha il gelato, corro a mandargli qualcosa, se quelli che si, non so, si incendiano, quelli che danno il pizzaiolo che si uccide, i tre bambini, insomma, cioè, faccio quello che posso, mi credete? Cioè aiuta la gente, spende così i suoi soldi? Sì. Per adesso sì, anche per la cultura però. E come vive? Molto. Vive come... No, vivo in una femminiere, voi avete la garçonniere, no, gli uomini. Io ho la femminiere, sì. A Milano, molto a Milano. Carina, di 90 metri quadri, sì. E quindi vivo benissimo. In banca però. Quanto c'ha? Per campare ce l'ha o no? In banca niente, perché ti ho detto, non arrivo a fine mese che ho 1000 di qui, o 2000 di là, o 500, 100, o non so, ma infatti i fatti vostri, non so, ho capito. No, vabbè, noi ci facciamo i fatti degli altri così per definizione. Ho capito, no, ma non guardate, c'avete una lista lunga, non so... 20.000 leghe per vedere chi guadagna, ma no, ma per carità, e, come, ma... e adesso hai visto in Senato che si aumentano pure gli stipendi, insomma, per siete carità. Anche voi come seguo io l'andazzo, sì. Severo, è tutto severo sempre. Senta, ma Berlusconi che è escluso da tutto. Ma no, veramente in questo momento si è autoescluso, no? Tanto ma è dai cavalieri del lavoro, lei li conosce questi cavalieri del lavoro? Beh, io ho avuto... Ah, a proposito, suo fratello, credo che sia suo fratello, non so chi. No, io non sono Marzotto, io nasco va con Dio. Ma scusi, Marzotto... il fratello del suo ex marito? Beh, politico liberale, però. È incazzato come una bestia con Berlusconi, lo vuole cacciare da tutti, dal cavalierato del lavoro, eccetera. No, vabbè, ma Pietro, no, vabbè, però Giannino prima l'ha aiutato, poi no, dipende, insomma, uno cambia idea. Poi Giannino adesso, niente, ha lasciato come posso dire, un fondo, un premio per chi si possa spendere solo in Italia, non ne so molto, però so che ha lasciato un lascito molto importante, sì. Per tutti i giovani che facciano qualcosa ma in Italia. Ma lei che consiglio darebbe alla signora Barbara Berlusconi o a Marina Berlusconi? Barbara non ha bisogno di consigli, è bravissima. A una Berlusconi che consiglio darebbe? Di mettersi in politica o no? Ma credo che non lo farà mai, se non lo so. Perché? Perché non ha... No, è politica questa, a me mi sembra... Non so, adesso Renzi con l'affitto che gli ho... Non so poi se ho capito bene, perché ci sono delle voci in giro, non so, perché l'affitto gratis... Per un periodo pare che... Che non sapeva che aveva... Sì. Che gli avevano regalato un appartamento, non so. Beh, ma lei è ancora berlusconiano o no? Ma non lo sono mai stata, sono molto amica perché mi ha dato, durante il mio divorzio, devo dire che mi ha dato una possibilità meravigliosa di occuparmi per 5 anni della standa, dove aiutavo le donne, vestivo le donne dalle donne in carriera. Ma può dare ancora qualcosa o no? Oppure ormai è finito? Non credo proprio, non sarà mai finito, lo dovete abbattere, la sai la barzelletta del nonno, no? Cioè bisogna fucilarlo, che bisogna fare? No, solo abbattendolo, perché risorge come l'araba felice. Che c'è, Parenzo, felice, che c'è? Felice dalle sue ceneri. Fa un sacco di proseliti con questo manicomio che c'è di questi tagli che va veramente allo sbaraglio. Volevo dettagliarti su questo. Dimmi. Non ho capito. No, sentiamo Parenzo. No, volevo dettagliarti su questo. È appena passato Achille Occhetto che ti saluta e ha detto però vabbè, Cruciani, e tu Cruciani chi? Vabbè. Poi volevo ricordare questo episodio invece. La signora Marzotto, sì. La signora Marzotto è stata modella per il grande Guttuso, questo lo devi sapere. Vabbè, cioè fece un quadro, scusate, come sono qui. Ah, c'è Terminoli, saluti Cruciani. Buongiorno Cruciani. Ciao, mi raccomando, ti comporti bene? Beh, io mi comporto sempre bene. Sempre, Terminoli c'era. Sempre bene. Cioè, poi? Piccolo cameo. No, volevo dirti questo: la signora Marzotto è stata modella per il grande Guttuso. Grande pittore. Vabbè, ma chi se ne frega adesso? Perché bisogna. Bersani, aspetta un attimo. Bersani, possiamo fare ciao, un saluto per la Zanzara? Aspetta, che sono Paola. È scappato. È scappato via subito. È scappato. Ma Grillo le piace, signor Marzotto? Ma adesso un po' di più. Perché quando è che le piaceva non di mi meno? Piaceva all'inizio, adesso un po' di più. Quando comincia veramente a dire quello che non so, quello. Poi dopo il disfattismo non mi piace assolutamente. Sono per costruire. Di solito non so, la critica non è mai. Io non ho capito Renzi, invece lei come si rapporta a Renzi, signora Marzotto? Le ma piace guarda, Renzi era oppure entusiasta, no? Entusiasta, però ha fatto delle cose terribili, cioè? Secondo me. Era entusiasta, ma dai ragazzi, adesso lo ripeto io, tutto quello che gli rinfacciano l'ha fatto, non so, di non avere, prometteva, parlava e non ha fatto nulla di quello che ha promesso, ma niente. Ma quando? Beh, per esempio rottamare le persone come me, che io, vabbè, io ho 83 anni. No, ma che c'entra lei? E mi rottamo da sola. No, sì. Ma i politici era. Invece sta riciclando tutti, dice. Ma lei. No, ma sono sempre gli stessi. Sono sempre gli stessi, con dei veti a lui. Perché voglio vedere, perché per alcuni il voto, anzi, per una volta è stato un voto pubblico. Vabbè, e poi adesso tutto voto come si dice quando nessuno lo sa? Ma voto anonimo. Ecco. Ma come dire, le piace come personaggio o no? È troppo cattolico? Ma io sono agnostica, quindi a me. Ma io rispetto benissimo la cosa, ma dimmi per quale ragione, vorrei sapere per quale ragione il caffè della P di Roma, sì, che è famoso da non so, la gente viene da trovati i cinesi, gli arabi, i giapponesi, tutti i russi. E tutto il mondo va, tutto il mondo lo conosce, adesso viene chiuso perché devono fare un albergo, naturalmente era un convento di suore che da non so, 50 anni ormai era Caffè della Pace, ma siccome il Caffè della Pace dice lei del Vaticano, il Vaticano fa un bel albergo. Vabbè, ma chi se ne frega, sono affari loro. Il Vaticano non paga nessuna IMU, ma sono i più ricchi del mondo. Ma il adesso Papa ci torniamo, Francesco, invece di dire aiutiamo i poveri, cominci lui col pagarci che ci aiuta e noi aiuteremo ancora di più il Sud, se almeno penso. Vado a stare svegli per amare. Questi due disgraziati pidocchiosi non solo si divertono, ma li pagano pure per divertirsi. Allora, cari amici delle Iene, però dovete tirare fuori. Ci hanno rivelato che lo scherzo a Sorrentino mancava di alcuni pezzi, di alcuni minuti in cui Sorrentino sbrocca, li insulta, merde, fascisti, eccetera, eccetera. Perché questa roba non è andata in onda? Pia Medeo ci hanno detto perché il montaggio era più coerente così, perché la cosa non portava nulla in più, perché la cosa è di una tristezza infinita. Il fatto che lui ci abbia attaccato in questo modo, però qualche sospetto può venire, no Parenzo? Qualche sospetto, no? Ma chi se ne frega che c'è Napolitano, scusami. Marco, guarda, questo è vilipendio al capo dello Stato, smettila. Vado a stare svegli anche per me. Allora, Pio. Ma come la zanzara, presidente? Vado a stare svegli per dovere. Pio e Medeo su Sorrentino. ci ha insultato per sé, ha detto andate a fanculo due merda, così ha detto, ha detto anche voi quanti anni avete? 30 anni Paolo. Ah, e non siete parecchio intelligenti però, mi sa, cioè in tono minaccioso che io lo riconosco. Come non siete parecchio, ha detto siete dei coglioni, no, non siete parecchio intelligenti. No, non siete parecchio intelligenti per fare questo mestiere, cioè l'idea vi siete messi contro a me e adesso io vi c'è una minaccia velata. Cosa che mi tiene sveglio è il fastidio di un ronzio che squarcia via il silenzio. E poi i fascisti, avrebbe detto, ha detto Sorrentino a Pio Amedeo. Ci ha detto due volte che eravamo dei fascisti senza ma forse motivo. Perché stavamo vestiti di nero. Non lo so, forse ha visto la questo l'ha fatto, quello si è visto. Ah, il dito in medio, medio sì, quello sì, ha detto fascisti fascisti pure fasci, noto perché è perché un programma fascista. Non basta neanche più pregare, ma che fastidio, che fatica. Oh, abbiamo scoperto che Marta Marzotto ce l'ha moltissimo con la chiesa, eh? Sì. Ma pure col papa ce l'hai? Vabbè, sì. Scusa, ma che ha fatto sto papa? Scusami, che ha fatto? Cosa sta facendo, dai? Beh, tutti dicono che è un personaggio. Diciamo cosa non sta facendo, perché sta facendo di tutto. Cioè, tutto quello che la Chiesa, non so, 2000 anni di Chiesa ha fatto, lui lo sta giustamente, tra l'altro. Però, visto che si occupa appunto di qualsiasi cosa, che naturalmente per salvare la Chiesa, sì. Non so, i divorziati si possono risposare in chiesa, gli omosessuali, i gay, tutti, allora? Una cozzaglia, va benissimo peraltro, perché io figurati non sono certo contro, però due papi non era mai vabbè. Successo, e poi anche tutto questo, i poveri, ma il Vaticano è ricchissimo, è lo stato più ricco del mondo, allora per quale ragione con tutti i tesori che hanno non prende qualche statuona giù, fa una bella l'asta che la facciamo tutti da Sotheby's, tutto il mondo andrebbe a comprare, quelli che hanno i soldi, anche i nuovi ricchi, va bene, e potrebbe salvare per esempio tutto il sud dell'Italia, basterebbe pagasse l'IMU, l'ICI, l'IVA, cioè qualsiasi cosa, perché non è più, non sono più le suore, le mandano ad essere sgozzate perché non ci sono più nell'Africa nera, e vengono, guarda caso, adesso il caffè della pace viene smembrato per fare un albergo, era un convento di suore, le suore non ci sono più, i preti, anche i camerieri si vestono da preti e fanno dei bellissimi ristoranti dove c'erano i posti più belli, le abbazie, le cose. Sì. Ora questo facciamoli almeno pagare, perché devono pagare, è uno Stato. Devono non pagare. Non è una cosa per le opere pie, perché non di Pio non e sui pedofili? E beh, pure, no? Che cosa? Ma non lo so, voi dovreste sapere la storia di un prete con nove anni aveva due anni fa, adesso ne ha 11, che ho preso, la madre denuncia il prete e la figlia, la bambina, perché la figlia ha 11 anni, è una bambina, trovati a letto insieme, così piangevano tutte e due, arrestati e poi lasciati perché non costituisce reato il fatto che lei era consenziente ed erano innamorati, a 9 anni, 11 anni consenziente. Ma che c'entra questo? No, che c'entra, per dire, beh, la Chiesa, secondo te perché? Perché il giudice ha detto che cioè perché? Gli alberati, cioè non si condannano ormai. Io se una cosa così e succede a una mia nipote, io prendo, intanto l'ammazzo e poi dopo non vado in galera. Ma scusate, secondo te ancora la Chiesa copre i preti pedofili? Secondo te? Ma dai, ma scusami, ma la Chiesa con tutto quello, non vedi che li spostano, non li mandano mai a casa? No, ma guarda che l'America sta pagando delle cifre folli, devono vendere palazzi interi, non so, qualsiasi cosa per tacitare tutte le vabbè, comunque pure ma Renzi. Perché contro natura, facciamo sposare i preti, facciamo sposare sicuro, i preti, questo sicuro. Facciamo sì che invece di un presidente criticato e oggi è il sorrisino, prima la Merkel, la culona, visto che c'è un culo anch'io posso chiamarla culona. Chiamala siamo culona, per carità. La culona Merkel con Sarkozy, buono lui proprio, te lo raccomando, vai. Lei pure, hai capito, sorridono, fanno il sorrisetto contro l'Italia, io Giuseppe giro il mondo intero, l'Italia è il numero uno per tutto quello che ma fa, che c'entra adesso, si mangia che c'entra italiano, si beve italiano, il cappuccino dopo un pranzo che a noi ci verrebbe il mal di stomaco, ho capito, però Berlusconi ne ha combinato uno più di Bertoldo da questo punto di vista, Ma perché gli altri no? Ma no, ma io guarda che non lo difendo, voglio dire però che anche quando vedo tutti, tutti i talk show, tutte le varie colonne, le varie non so, gabbie, le varie piazze, tutti, io li, no, Ballarò, che poi amo moltissimo queste cose quando sono fatte bene, proprio le seguo, parlano di un ventennio di Berlusconi, ma il ventennio... Io lo so perché essendo liberale ogni tanto seguo, ed essendo stata liberale, essendo stata la diciamo, vabbè, adesso non, non divaghiamo, dai. No, beh, 11 anni sicuramente la sinistra e 9 anni la destra, il centrodestra, non lo so, però non sempre si pure Renzi comunque non è lontano dalla Chiesa Cattolica, non è lontano dai preti, anche Renzi ha quella cultura lì, Ma cosa vuol dire questo? Scusa, ma io sono. Ma perché il governo? Ma tu hai visto oggi che cosa hanno fatto vedere? Che hanno fatto vedere? Ma io vedo aspetta, che non si capisce niente. Vendono speriamo che lo chiudano, no? Perlomeno il Senato. E il Parlamento, il Parlamento, non so dove succedeva questo. Perché poi. Senti, ma tu dove vivi? Dove vivi? A Milano o a Roma? Scusa, dove vivi? A Milano o a Roma? Io sai che non lo so. Ma come non lo sai? Non so mai quando mi sveglio al mattino. Se sono in Africa, se sono a Marrakech, se sono. Che sei completamente rincoglionita, scusami, Marta. No, non sono rincoglionita. Che ne so, non sai dove stai, in Africa. Non mi ricordo dove sei. E dici pure che non c'hai in euro. Non sono mai ferma, voglio dirti. Per adesso io vivo molto bene, lavoro molto bene a Milano. A Milano. E la Roma di Marino. Voi per chi votate all'Europa? Ma che ne so, manca un mese e mezzo. Capirai due perché mesi, tu non anzi. Hai le idee chiare. Ma che zanzara siete? Ma dove pungete? Ma nessuno voterò. Parenzo, ci sei o no? No, allora scusa, perché non aspetta, Marta. Barbara. Ma non ci penso nemmeno lontano, perché tu voti la lista Tsipras, non ho capito. Sì. Marta, prenderemo 5 voti, ma piuttosto che sprecare. Ma poi perché non votare? Voti loro invece di non votare. Parlano solo di cultura, di poesia, di arte e di comunque... La cultura, i sogni, la poesia e salvano il mondo, i sogni salvano. Sogniamo un po', no? Vabbè, ma qui siamo all'abisso. Ci siamo a che cosa? No, Parenzo? Allora, ti sei perso tre cose, io provavo a parlare. C'era Luca Cordero di Montezemolo. Vabbè. Tanto mi avresti detto c'è Luca Cordero di Montezemolo, poi? No. L'avevo fermato due minuti, poi giustamente si è rotto i coglioni. Ma figuriamoci. È appena entrato Grasso, c'era Ignazio, sto aspettando Napolitano che sta arrivando, Giorgio, sta arrivando. Quindi quando ti dico c'è Giorgio, io te lo passo in diretta, poi c'è una silva di microfoni, li metto sicuro, sotto e dirò che è Zanzara. Però ti prego, adesso c'è Ignazio, la notizia è questa per ora. Ignazio Marino è arrivato all'auditorium con la bicicletta e io gli ho detto legala però Ignazio, perché altrimenti te la portano via. E lui mi ha guardato con disgusto, non capisco perché, però non ha legato la notizia è che non ha legato la bicicletta e un signore, si vede uno dei colleghi, l'ha parcheggiata. Adesso, l'altra cosa che posso raccontare... Non me ne fotte nulla. Ciao Marta, ciao, a presto, ciao. Ciao ragazzi, ciao. Lavorate. A parte che anch'io sono per l'eliminazione immediata di Parenzo. L'ottima trasmissione è sempre la migliore. Marco da Milano, buonasera. Marco. Andiamo a mangiare lì. Marco? Pronto? Sì, dica. Pronto, sono io. Vai, pronto. Vai, dimmi. Ciao, come stai? Volevo dirti, guarda, con grandissimo dispiacere, perché effettivamente io ti ammiro tantissimo. E la Zanzara la seguo da tantissimo tempo. Praticamente, secondo me, c'è un po' di, non lo so, si è mosciata un po' la Zanzara, nel senso, saranno 15-20 giorni. Sì. Avete fatto un mese che era uno sballo assoluto, veramente potentissimo, e poi adesso si sta affievolendo e poi volevo dirti, al posto di Parenzo, non puoi riprendere Razzi? Beh, Razzi posso prenderlo come ospite, diciamo, non è che lo posso prendere. No, proprio al posto di Parenzo, tanto non penso che sia così impegnato quell'ora e mezza al giorno. Ma si può valutare questa cosa, si può valutare. Il collegamento telefonico, perché Parenzo veramente ormai non ha più niente da dire, non ha più... mi dispiace anche per lui perché gli volevo bene, però è dispiace anche a me, dispiace anche a me. Noioso. Vabbè, niente, era solo così perché spero effettivamente che rimaniate sempre sulla cresta dell'onda. Bene, grazie, ti abbraccio, ciao Marco. Ciao, Bruno ciao. Da Verona, Bruno. Ciao Giuseppe. Dai, vai, dimmi. Allora, sì, l'altra volta ti ho dato dei consigli e tu ti sei preoccupato per me, mi vuoi bene anche tu. Beh, io ti voglio benissimo, Bruno. Sì, perché mi hai detto che vita sessuale non ce n'ho, che sono da curare, però... Ma non lo so, non mi ricordo, chiama tanta gente, Bruno, non mi ricordo di te, allora, abbi pazienza. Allora, ti do tre spunti di riflessione, perché io il professore non lo farò mai nella vita. Sì. Sulla conduzione del programma. Ancora? Dimmi, dai, caro, allora, dimmi. Sì, ma... fammi parlare un secondo. Vai, parla, ti sto dicendo parla, se non parli. Primo, avanti. Articolo costituzionale bellissimo. Ognuno ha il diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero tramite le parole, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Vabbè, questo lo sapevamo. Dunque? Tu lo temperi, però liberamente non ti entra in testa, Giuseppe. Sì, va bene. Poi, secondo... Perché? Prima cazzata, passiamo alla seconda cosa. Prima cazzata, fammi poi... spiegare. Perché quando intervisti qualcuno lo interrompi, dai subito dei giudizi affrettati. Vabbè, la Costituzione non c'entra nulla, quello è un modo di condurre. Se ti piace, bene, se non ti piace, no, cambia canale e non mi rompere no, i coglioni. Poi, secondo. Detto, Giuseppe, però, al secondo. Secondo. Pannella, lascialo stare, dai, perché alla sua età ci arriveremo tutti all'età di Pannella. Può e darsi. Magari neanche ci arriveremo. Può darsi. Poi, terzo. Per cui, capo terzo, io... mi dissocio dall'ascoltatore di prima perché a me Davide Parenzo piace tantissimo. Bene, poi? E considerando che sono di Verona, lui è di Padova, io 75, lui 76, lui di sinistra, io di destra, lui ebreo, io cattolico, lo stimo tantissimo. Vabbè. Quando chiama qualche ascoltatore, perché gli dai 4 minuti di insulti reiterati a Davide Parenzo? Ma chi? Ma chi? Tu! Ma chi dà? La gente fa quello che vuole, non hai capito ancora come funziona qua, qui non c'è nessuna... No, Giuseppe, ho capito benissimo, però quando tu dai corda alla gente che insulta e basta Davide, senza senso, mi ricordi un po' la De Filippi in Uomini e Donne, sai? Quando vergognosamente Eccolo. Si dicono delle Napolitano. Cagate incredibili ah, no. E lei resta lì ebete ad ascoltarli e ride. Vabbè. Non ha senso. Non ha senso. Napolitano. Sì, vabbè, pazienza, è passato Napolitano. È passato sì, Napolitano, qua, bravo. Qua, Napolitano alla zanzara, aspetta. Sì, sicuro, al 100%. Napolitano alla zanzara, sicuro al 100%. La zanzara. Non fagli sentire i camionisti, però, come al solito. Ma smettila, dai. Fagli sentire i camionisti come al solito, perché sennò... Sì, sì, smettila di fare il buffone. Presidente, ma presidente cosa? Presidente Napolitano, come vuoi chiamare? Ma quale presidente? Ma è lontano 200 metri, circondato dalle guardie del corpo, da chiunque. È qua. Ma è qua dove? Ma di che stiamo parlando? Cioè, dai l'illusione alla gente che ci sia Napolitano, non ci sarà mai. David, dai, su. Dai, buono. Ma dove? Presidente, un ricordo di Berlinguer. Ma chi se ne frega? Chiedili quando si dimette, altro che Berlinguer. Ma sei uno stupido. Ma sei. Vai. La zanzara è quell'odioso insetto. Intanto vi benedico e vi esorcizzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mi ha beccato, ai, mi ha beccato. Gratta, gratta, ma il grande reality della zanzara. Troviamo un fidanzato a Lara Comi, europarlamentare di Forza Italia. Oh mamma, mi ci vuole la fidanzata. Perché io devo mettere la testa a posto. Mamma mi ci vuole la fidanzata. Pure che mi faccia vivere nel modo giusto e non così. Adesso c'è Cruciani che c'ha una missione di trovarmi il fidanzato a questo punto. Sì, perché tutti single siete diventati all'improvviso, tutti single. Non è vero. Tutti single. Non è vero. Vabbè, lei si va come, da quanto è single? Da 4 anni. Spesso stile Peppino e Totò. Le mie ex dicono che sono un bastardo bugiardo, ma io gioco d'azzardo. La mia vita è un casino. Ogni sera nel night di Kim Mauri con i ragazzi della banda. Allora, qui abbiamo un candidato serio, un candidato serio, Nicolas. Lavora nella comunicazione, 28 anni, stai sentendo David? Certo che sento. Senti questa roba qua, Nicolas, ci arrivano tantissimi curricula. Ciao, sono Nicolas, chiamo da Roma e lavoro in comunicazione. Vorrei fidanzarmi con Laura Comi perché... è una donna stupenda, uno sguardo penetrante. Poi è stato sempre un mio sogno erotico quello di fidanzarmi con una imprenditrice di Forza Italia. Io che sono comunista dentro, sarebbe come portarmi a letto l'intero centrodestra, e lei la rappresenta in pieno. Quindi Laura, ti prego, finanziamoci, facciamo tanti figli che avremo un futuro radioso davanti a noi. A parte che non è Laura ma è Lara, caro Nicolas. Poi uno non è che può presentarsi in questo modo, dai, su, ma sei bocciato in partenza, non hai speranze in questo modo. Poi 28 anni, vabbè, quello non c'entra perché ci chiamano un sacco di giovani, però insomma, sogno erotico, uno già si presenta così. Passi dal sogno erotico a facciamo tanti figli e sono di sinistra, dunque mi piacerebbe stare con un simbolo della destra. Chiaro che non è seria la cosa, no? Quello sta zitto. Parenzo! Sì, che vuoi che ti dica? Vabbè, niente, non c'è un cazzo da dire, dai. Andiamo con uno che ha una scuola guida, Luca, 47 anni. Ciao, mi chiamo Luca, chiamo da Torino, 47 anni, lavoro in una scuola guida. Perché mi piacerebbe fidanzarmi con Lara Comi? Ma perché politicamente la pensa come me, ma questo è irrilevante. Poi perché fondamentalmente è il tipo di donna che mi ha subito ispirato fin dalle prime volte che l'ho vista in televisione. Che dire? A lei adesso l'ultima parola. Beh, questo neutro, dai, neutro. Oh, Gabriele, studente di 25 anni. Senti, senti questo. Ciao Lara, mi chiamo Gabriele, ho 25 anni e studio a Milano comunicazione d'impresa. Ho aperto e gestisco un bed and breakfast nel centro di Perugia. Sono un bel ragazzo, giovane, prestante, e di sicuro la nostra differenza di età non sarà un problema, perché il cavaliere docet. Stare con i più giovani è meglio. E io ero anche dalla tua parte quando alla Zanzara ti hanno tirato in mezzo quei due bastardi di Cruciani e Parenzo sull'alluvione in Sardegna, e ti dicevano che tu da Bruxelles devi stare zitta. Io ero lì che ribollivo, non vedevo l'ora di prendere le tue difese. Se ci mettiamo insieme potrò farlo. Vabbè, questo addirittura il cavaliere docet, dunque la differenza di età non è un problema, dai, su. Ma questa gente qua non è veramente, ma è incredibile. Ma come pensano? Ma che gente è proprio? Io vorrei proprio vederli in faccia questi. Ma perché li devi trattare così male? Si stanno, come dire, dichiarando per Lara Comi. A questa gente piace Lara Comi. Noi abbiamo fatto questo reality e adesso tu li distruggi in questo modo, poveracci. Sì. Si stanno dichiarando, scusa, ci mettono la faccia. Oh, uno studente di filosofia di 23 anni, ma sai che attira un sacco di giovani in realtà? Perché c'ha questa faccia pulita, così, cioè, un sacco di giovani sono attirati da signora Comi, eh. Giulio, studente di filosofia, 23 anni. Ciao Lara, mi chiamo Giulio, sono uno studente di filosofia all'Università di Berkeley in California. Ti mando questo messaggio perché posso immaginare che il Parlamento europeo possa rivelarsi un ambiente teso. Quindi se volessi organizzare una fuga, io sarei felice di ospitarti qui da me in California. È un posto molto bello, c'è sempre il sole, le persone sono simpatiche. E dato il fuso orario, si può addirittura ascoltare la Zanzara in diretta la mattina quando uno si sveglia, il che per me non ha prezzo. Quindi scrivimi, ti aspetto. Un saluto. Nei prossimi giorni anche un messaggio di Lara a tutti questi, signori e ai prossimi che si candideranno. La Zanzara è radio24.it, si continua, il reality continua. Poi ci inventeremo qualcosa, dai. Renza, provincia di Treviso, anzi no, prima c'è Francesco Rimini. Allora senta Cruciani, lei sta facendo da megafono ai giornali di centrodestra. Da chi sto facendo, a chi sto facendo megafono, scusi? Ai giornali del centrodestra. Ai giornali del centrodestra, lei è così sicuro, sì. Me lo lasci dire? Sì, prego. Perché? Dica, dica. Che sulla questione di Renzi, i contributi che Renzi, lei ha detto, i contributi li stiamo pagando noi perché Renzi si è fatto assumere dall'azienda di famiglia. Beh, quello è vero, nessuno l'ha mai negato, nessuno l'ha mai smentito. Punto, e basta. Sto dicendo che è un po', come dire... È vero, tuttavia, da 20 anni, sì, noi, contribuenti, paghiamo gli avvocati di Berlusconi. Vabbè, che lui ha fatto eleggere in Parlamento, che non vanno mai in Parlamento. Assolutamente, e infatti noi ogni volta lo diciamo, lei va troppo poco in Parlamento, dovrebbe andare di più in Parlamento, Ghedini addirittura è un super assenteista, ma anche Longo, glielo diciamo ogni volta, e dunque paghiamo dei parlamentari che non vanno in Parlamento, però sono due cose... Per fare gli avvocati di Berlusconi. Sì, ma sono due cose distinte e separate, io sto dicendo semplicemente una cosa, non è possibile che siccome... Renzi adesso è il presidente del Consiglio, giovane, che vuole fare una rivoluzione, eccetera. Alcuni argomenti, che sono le critiche giuste anche a chi ha lo scettro in questo momento in mano, siano, come dire, i grandi giornali non ne parlino. In altri momenti la questione della casa, la questione dei contributi, la questione che riguarda Marco Carrai e la futura moglie di Marco Carrai, cui è stato affidato un incarico al Comune di Firenze, forse non a caso. Insomma, andrebbero trattati, andrebbe date a questi argomenti la giusta rilevanza, o no? No, ma se si dà a questo argomento 10 righe di rilevanza, si dovrebbero dare contemporaneamente 10 pagine di rilevanza alla questione avvocati di Berlusconi in Parlamento, che non ci vanno mai. Va bene, allora, ma non c'è, sono due cose distinte e separate. Adesso il Presidente del Consiglio non è Berlusconi, ma è Renzi. Però noi continuiamo a pagare quelli di Berlusconi. Vabbè, ma questo qua, le do ragione su questo, però sono due cose un po' diverse. Marco da Roma. I giornali di centrodestra fanno la campagna. Oh, veramente la fa solo Libero, perché il giornale non è proprio così antirenziano. Marco da Roma. Ciao Cruciani, tu sei un genio, però a te non te ne frega niente. Ti volevo dire solamente una cosa, che magari per me è importante e per tanta gente no. La Marzotto mi sembra intervenuta poco fa con un'altra indicazione sulle magagne della Chiesa, su deve pagare l'ICI, sono tante cose, giusto? Mi sembra infatti corretto, però ricordiamoci una cosa, tutto quello... Non ho capito, Marco, si sente male, non ho capito. Scusami, tutto quello che Elsa fa, assolutamente fa. Vabbè, non si sente niente, Elton da Brescia, dai, poi lo richiamiamo. Elton Ciao, da Brescia. Cruciani, mi senti, Cruciani? Sì, dimmi. Ciao, bello. Ascolta, ti volevo dire, hai finito di proteggere la Mussolini o no? Io proteggo la Mussolini, io sono l'unico, uno dei pochi in Italia che in una trasmissione ne parla, amico mio. Uno dei pochi. Ne parla, cosa ne parli? Non ha colpa, come non ha colpa? Figa? Cioè, il suo marito va con le ragazzine di 14 anni, non ha colpa. Io non ho detto che non ha colpa, ho detto che chi ha colpa o chi non ha colpa, lo decide un magistrato, non lo decido io, hai capito? Questa gente è finita, perché io che sono cresciuto nella strada e so come gira. Sì. Quella, le ragazzine li minacciano, hai capito? Le ragazzine? Li minacciano quella gente lì che va con loro, hai capito? Cioè li ricattano, vuoi dire tu, Elton? Sì, li ricattano, li minacciano, perché non devono parlare, non devono fare niente. Vabbè, questo lo vedremo, che li ricattano o non li ricattano, questo qua lo vedremo, caro amico mio. Tu hai già condannato, hai già condannato il signor Floriani. Per me sì, no, ma non c'è problema. Ma guardi che io sarò il primo a condannarlo, sempre per le leggi, sempre secondo il diritto, ovviamente, per il fatto di essere andato con una ragazzina di 14 o di 15 anni. Sono il primo, sono lì. È un crimine, no, è un crimine quello lì. Deve andare a carcere a vita, non deve uscire più con quell'uomo lì. Il carcere a vita, vediamo, cioè non ha stuprato nessuno, non ha violentato nessuno, è forse colpevole di prostituzione minorile. Lui dice che di non sapere se erano minorenni. Vedremo, ovviamente, no? Una ragazza, cioè, in tribunale quando andrà, certo che nessuno non è colpevole. No, ma in tribunale quando andrà nessuno è colpevole. Quando uno va in tribunale non è che nessuno è colpevole. Uno entra da imputato, esce o colpevole o innocente, non è nessuno è colpevole. Che vuol dire? Si difenderà, dirà che non si era reso conto, non sapeva, eccetera, eccetera. Ti chiamo anche per questo. Siccome ho sentito che annunciano tutti per l'ala Cromi, non so come si chiama. Ma tu, Elton, di dove sei? Scusa. Dico anch'io la mia. No, non si può dire nulla in diretta. Non si può dire nulla in diretta. Se vuoi, manda una mail, candidati col tuo curriculum, ti richiamiamo, eccetera, eccetera. Non mi moleste moschito, non mi moleste moschito. Purtroppo a me questa trasmissione un po' piace, anche se mi fate rompere i coglioni. Non mi moleste moschito, let me eat my burrito. Ormai è tutto... Tutto degradato ormai. Bruno da Bologna, buonasera Bruno. Buonasera Cruciani. Dica. Volevo semplicemente esprimere il mio disprezzo, diciamo, chiamiamolo così, per Parenzo. Perché? Che ha fatto? Mi unisco e sposo e firmo in toto le parole dell'ascoltatore di prima. Ma perché, che ha detto? Mi sono scordato. Chi? Come? Quando? È servile, fa interventi solo in favore della sinistra, è uno scandalo, è veramente nullo. le consiglio di cambiare partner. Addirittura. Un'altra cosa, sì, volevo dire al, a Ferrero, a quel comunista che è intervenuto, sì, ieri, sì, che svolge tranquillamente un secondo lavoro, lui è un privilegiato, e anche per lui esprimo disprezzo. Ma quale secondo lavoro? Ma non fa, non fa nessun secondo lavoro, lavoro. Cioè, no, è in aspettativa, ma non fa un secondo lavoro. Cioè, è in aspettativa dal primo, cioè, si è messo, peraltro in questo momento nemmeno, perché è in part time, ha detto, per cui proprio guardi, una cosa su cui non lo si può attaccare, uno lo può attaccare su tante altre cose, sulle sue idee politiche e tutto, ma non sul fatto che uno si mette in part time, no, in aspettativa. Certo, nel pubblico è più facile mettersi in part time o in aspettativa. Tra l'altro ho citato lui perché di volta in volta arriva il politico di turno che ostenta il fatto che guadagnano tanto, che magari per loro è poco, e offendono in un certo qual modo le persone che ascoltano, che lavorano normalmente. Sì, ma in questo momento, tra l'altro, lei ha preso l'esempio sbagliato, perché Ferrero non ha nessun incarico, non è parlamentare, non è nulla. Esatto, vabbè, lo è stato per tanti anni e le assicuro che non ci ha rimesso. Vabbè, Parenzo, che fai? Rispondi, non rispondi? Che diavolo stai facendo? E com'è? Vabbè, arrivederci. Marco da Roma, adesso è quello di prima in realtà. Marco, Marco, che volevi? Eccomi, no, ti volevo dire solo una cosa, tanto quello ormai è andato. Molto, però mi senti ora? Sì, sì, ti sento, dimmi. Ok, abbiamo tanto parlato male, parliamo spesso male della Chiesa Cattolica, di qua, di là, ma senza le belle chiese, i bei monumenti, al di là di destra e sinistra. Ma che c'entra questo con l'ICI? Che siamo noi, pizza e mandolino? Con l'IMU. L'amica parla dell'ICI, parla dell'IMU, ma i due terzi del tuo turismo, del nostro turismo, da dove viene? Vabbè, ma questo non c'entra nulla, dai, non c'entra nulla, non c'entra nulla, dai. Non c'entra nulla, sei sicuro? Non c'entra niente, dai. Sei più intelligente di me, indaga, pensaci, valuta, ciao. Bah. Fernando Roma. Fernando? Sì, arrivederci. Renza, provincia di Treviso. Intanto volevo dire il livore di quei sinistri che gioiscono per la Mussolini e Floriani, guardi, non ha fine, non ha limiti. Ecco, poi volevo dire a proposito di Mosca, della Russia, io ho il figlio che lavora a Mosca per un'azienda che poi fra parentesi... Sì, ma quali sarebbero questi sinistri? Quelli che ci hanno chiamato, che godono per Mussolini, quello di prima? Sono quelli di sinistra. Sì, no, ma questo l'ho capito benissimo, ma non è che c'è tutta questa gente che gode, c'è quello che ci ha chiamato prima. Due, tre, già questa sera. Che lei è convinta che quelli di sinistra godono per quello che è accaduto alla Mussolini? Beh, guardi, non credo gli altri, perché non si può godere di una cosa del genere. Beh, a parte che sono Floriani, anche io ogni volta mi alzo dalla sedia quando sento Floriani, ma non ero parente prima e non sono parente adesso. Ma non ho capito, perché lei si chiama Floriani di cognome? Mio marito, sì. Suo marito si chiama Floriani. Vabbè, ho capito, ma non è una colpa, insomma, no? No, non è una colpa, ma Floriani, insomma, vabbè. Che pure suo marito aveva qualche vizietto, qualche cosa, no? Spero di no. Eh? Spero di no, se no gli do un calcio in culo. Vabbè, Renza, che cosa vuole aggiungere? Voglio aggiungere alla Russia. Sì, alla Russia. Beh, la Russia ne facciamo a meno, va. Arrivederci, Renza. Beh, danzano come zanzare queste ombre sulla strada. E cadono le Pellegrin, meglio napoletani che crucchi. Ma che vorrà dire il mitico conduttore di Radio Padania? Le matrone tedesche hanno un debole per gli italiani impuniti. Secoli di storia e chilometri di lungomare romagnolo sono lì a testimoniarlo. Questo per introdurre il rapporto tra il premier, come lo chiamano loro, che non si può perché in Italia non esiste Presidente del Consiglio, primus inter pares, e Frau Merkel, Angela Merkel. In pratica, le crucche, posso usare un linguaggio esplicito, scusa le signore, vengono trattate come se fossero delle vecchie maiale che piombano sull'Adriatico a caccia di galli latini, galli adriatici, galli italiani, da cui farsi coprire. Mi brucia quel tuo sorriso che mi fa pensare a casa. È impazzito completamente Pellegrin. Ma tu hai capito cosa voleva dire? No, io credo che Pellegrin non dovrebbe neanche più essere in circolazione. Cioè, questa qua è gente che ha un odio dentro, questa gente qua. Io non capisco perché posso trasmettere liberamente. Cioè, come fa? Vabbè, adesso qua? Non esagerare, dai, su. Ma non si può tollerare sempre tutto. Non si può. Non, questo ma cosa ha detto in questo caso? Scusa, non ho capito. Cosa ha detto di tu? Ma tu, ma dice delle sporconerie. Delle sporconerie. Ma dai, su, ma che sporconerie? Ma quando mai? Dai. Senti un'altra cosa. Senti un'altra cosa. A me le brutte persone non piacciono più. La senti un'altra cosa. Estrema. Non mi piace, non mi piace. Vabbè, vattene da un'altra parte allora, va. Senti. Lo so perché io tra le altre cose detesto morti i Crucchi, proprio perché li vedevo all'opera Lignano Bibione. Insopportabili. A partire dal loro idioma disgustoso, ma da partire anche dal loro comportamento che lontano da casa loro è davvero dei più disgustosi. Molto meglio, sinceramente meglio ai napoletani dei Crucchi quando ce li hai in casa. I capannoni. Meglio i napoletani che i Crucchi. È tutto qua. Beh, qui siamo al top, eh. Radio Padania al top. Sulla strada, e da lontano è un po' appannato. Fernando, Roma. Sì, eccomi. Dimmi. Ciao, buonasera. Io vi seguo perché vi trovo abbastanza liberi dagli stereotipi, diciamo. Perché anch'io odio un po' i luoghi comuni e le etichette. Sì. E per questo volevo farvi un po' una proposta insolita. Dimmi. Spero capirete questa mia proposta. Io vorrei togliere il voto a tutti gli imprenditori, perché sono, almeno ho sentito, sono tutti fuori legge. Sì, hanno, secondo Augias, hanno iniziato la loro carriera imprenditoriale accumulando capitale in maniera illegale, così dice Augias. Sì, secondo ciò che dice Augias mi sembra che siano tutti fuori legge, quindi adesso che facciamo le riforme possiamo inserire anche questa piccola clausola, insomma, che gli imprenditori possano tranquillamente andare in prigione e essere esclusi dal voto, perché io non capisco come si faccia nel 2014, non so se siamo nel 2014 ancora, come si dice a Roma, ai tempi di Checchennina, perché veramente è una cosa incredibile. Qualcuno mi dovrebbe rispondere, ma il mondo va avanti per le convinzioni? Ma non ho capito, che cos'è che l'ha scandalizzata? Che cos'è che ti ha scandalizzato, Fernando? Non ho capito bene. No, non per Augias, spoveraccio, ma il discorso è un altro. Il discorso è di queste certezze. Ma certezze di chi? Le certezze di dire che una categoria è fatta in quel modo. Ah, vabbè, fa l'intellettuale ed è lontano, sembra essere lontano da queste, no, da come poi... Il mondo va avanti con i dubbi, non con queste certezze becere. Vabbè, che vogliamo fare? Grazie, Fernando. Zanzara! C'è una zanzara tigre. Ha scritto un articolo molto, molto critico nei confronti in generale degli Oscar. E addirittura l'amico Giuliano Ferrara credo che abbia dovuto chiedere scusa, una cosa di questo tipo. Sergio Di Cori Modigliani, buonasera. Buonasera. Che è successo col suo articolo sugli Oscar, su Sorrentino? Ah, non lo so. Come non lo sa? Non lo so, io ho scritto quello che pensavo. Ma dopo c'è stato qualche no? Qualche movimento, sì. O no? Sì, ma io, guardi, non ho seguito molto. Tu te ne fotti di quello che succede dopo. Sì, nel senso che sono tutte, fanno parte di giri loro, cose loro. Di legami loro, eccetera, eccetera. Sì, esattamente. Cioè, ma cosa hai scritto in sostanza? Che l'Oscar si guadagna e si ottiene anche facendo politica, sostanzialmente, no? Beh, fondamentalmente sì, ma è una cosa, voglio dire, è il segreto di Pulcinella. Vabbè, non avrai scritto solo cose ovvie, però avrai scritto pure qualcosa di originale, perché altrimenti... No, io ho semplicemente detto questo, che bisognava rendere merito, comunque che bisognava riconoscere il fatto e dire le cose come stavano, che politicamente, perché si è trattata di un'operazione di marketing politico, la verità è che era, e bisognava riconoscerlo, era un grande successo di Berlusconi, perché lui aveva prodotto il film, non letterariamente, nel senso, non è lui il produttore. Sì, ma che cos'è che ha fatto scandalo? Cioè, è il distributore, allora il produttore si è offeso, ma chi sa come si fa un film sa perfettamente che ciò che conta è la distribuzione, perché la distribuzione anticipa i soldi. Sì. Il produttore non è una persona che mette i soldi, nessun produttore ha mai messo un soldo, il produttore trova i soldi, quella è la funzione del produttore. Ma lasciamo perdere la questione dei film, eccetera. Volevo chiederti, ma come vedi questo Renzi, no? Questo Renzi Uber Alles? Questo Renzi Uber Alles, insomma, diciamo, io non credo che faccia bene all'Italia. Addirittura, e come mai? Perché penso che in questo momento va bene dal punto di vista mediatico, come impatto mediatico, però aggiunge, come dire, ipocrisia, perché in realtà quella che vi è stata presentata da lui come una rottamazione è una modalità mediatica geniale per invece riconfermare esattamente il tipo di trend italiano dal quale tutti quanti ci si aspettava di potersi allontanare. Penso che in realtà lui sia stato rottamato. Da chi, scusa? Da D'Alema e Veltroni all'interno del suo partito. Ah, tu dici che quelli che devono essere rottamati lo stanno rottamando? No, l'hanno proprio rottamato. L'hanno sterilizzato. Sì, esattamente, e infatti è un capolavoro politico dal mio punto di vista, questa è la mia interpretazione, sì. L'attuale governo è un capolavoro politico di Berlusconi, D'Alema e Veltroni, che non sono in Parlamento, sono tre, diciamo così, capitani di lungo corso, tre persone intelligenti e molto abili, che tra le altre cose, adesso al di là di Berlusconi... No, hai detto un prodotto, è interessante questa cosa, ma invece tu sei grillino, sei vicino a Grillo o no? Sì, io sono un solido sostenitore del movimento. Addirittura? Sì. E dunque tutte queste storie di Grillo, dittatore che spelle i dissidenti, eccetera, come le vedi? No, beh, puttanate. Sì, però roba così mediatica per agitare la piazza contro il Movimento 5 Stelle, che è un nemico, insomma, elettorale, è un concorrente elettorale molto pericoloso, e quindi bisogna approfittare di qualunque altra cosa, di qualunque cosa sia possibile. Ho capito, ma che vuole Grillo adesso? Cioè, se è capita una proposta concreta, cioè perché ti piace Grillo? Ci sarà una proposta concreta che ti affascina, che ti attrae? Qual è sta proposta? Dunque, fondamentalmente la cosa che mi affascina, fondamentalmente sono due le cose che mi affascinano. Dimmene una. La chiarezza e la trasparenza come punti fondamentali per una rivoluzione antropologica. Addirittura. In Italia. Una rivoluzione antropologica. Parenzo, di qualcosa tu. Parenzo, vuoi dire qualcosa? Ma uno che parla di rivoluzione antropologica, di un personaggio che sa solo dire parolacce, mandare a fare in culo e candidare della gentaglia in Parlamento. Ma la gentaglia quale sarebbe la gentaglia? Tu stai dicendo che quelli che sono in Parlamento è gentaglia, non ho capito. Sei impazzito, cioè quelli che sono in Parlamento è gentaglia. Cioè quelli che sono in Parlamento dei 5 Stelle è gentaglia, la chiami gentaglia? Gente, no, no, dillo, devi avere coraggio, cioè quelli che sono in Parlamento dei 5 Stelle è gentaglia. No, hai detto così, quelli che sono in Parlamento per i 5 Stelle è gentaglia. Alcuni di questi sono gentaglia, gente completamente impreparata. Ma come gentaglia? Come si fa a dire gentaglia? Questi qua è gentaglia. Adesso fai tu lo scandalizzato con me, tu che sei... Ma no, quelli che sono in Parlamento è gentaglia, ma come si fa? Alcuni di questi sono... Ma uno che dice del microchip sarà una persona... Capito, una ma persona tu l'hai chiamati gentaglia, uno può dire... Gentaglia, che vuol dire gentaglia? Ma non vuol dire criminali, assolutamente, anzi, dal punto di vista legale, sono persone che hanno la fedina penale pulita, persone molto per bene. Che sei tu che l'hai chiamati gentaglia, mica io. Dalla società civile, dico culturalmente, molti di questi sono gentaglia, culturalmente. Gentaglia, vabbè, gente ha portato in Parlamento della gentaglia, ho capito. Ma no, ma ha fatto una retata. Ma abbi il coraggio di dire una cosa del genere, quelli che sono in Parlamento, ha portato in Parlamento della gentaglia. posso, io, il metodo di selezione di quella classe dirigente lì non è un metodo di selezione. Ma maestro, la sta infiocchettando, dai, su, a portare in Parlamento della gentaglia che dico, si certifichi questa cosa fare, qua. Se, di Cori, ha sentito pure lei? Ecco, sì, ha sentito. Ho sentito tutto. Parenzo, due punti. Grillo ha portato in Parlamento della gentaglia. Questo ha detto Parenzo. Che sia certificato, che sia certificato e che sia, come dire, diffuso urbi e torbi. Questa è la sua opinione. Ci sentiamo domani 18:30. Ciao. Perché Berlusconi qua, Berlusconi là, tutti i giorni da 20 anni, due coglioni così. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30. Lo so, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Ti saluto, Cruciani.